con Antonio Adinolfi di Videa che lo distribuisce per parlare del film La casa di Jack di Lars von Trier al cinema da giovedì 28 febbraio 2019. Antonio, ben trovato. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Novità delle ultime ore, c'è un divieto per i minori di 18. Esattamente, questa è proprio una notizia, diciamo, che noi abbiamo avuto ieri sera e che abbiamo diramato attraverso un comunicato ufficiale nostro interno Videa, per cui la doppia versione che avevamo in qualche modo sottoposto alla censura, una in versione appunto integrale che sarebbe poi andata in versione originale in sottotitolata e la versione tagliata alleggerita di poco, ma insomma quella che poi era uscita anche negli Stati Uniti, entrambi hanno avuto il divieto ai 18 anni. Noi, il tentativo era nostro, di Videa, era quello di in qualche modo rendere fruibile a tutti il film e nella versione tagliata in qualche modo alleggerire quelle scene che oggettivamente forse risulterebbero molto molto forti, per cui è stato un po' questo l'obiettivo, insomma, e la censura ha per entrambe le versioni riconosciuto il QM18. Raccontiamo brevemente la trama. Certo. Sì, senza poi direi svelare troppo, perché alla fine è un film di Lars von Trier, è un film d'autore, ma è anche la storia, diciamo, complessa, complicata, difficile della costruzione del delitto perfetto da parte appunto di Jack, che cerca attraverso i capitoli che compongono il film di arrivare alla, in modo compulsivo e ossessivo, all'omicidio perfetto per costruirsi appunto la casa di Jack. E nel tentativo di fare questo viaggio sarà accompagnato appunto da una figura, se vogliamo, quasi mitica, che è questo Virgilio, interpretato da un meraviglioso Bruno Ganz, recentemente scomparso. Questo è quello che mi sento di poter raccontare senza poi svelare troppo agli ascoltatori. È stato all'estero e che risposte ha avuto? Allora, questo film, come sicuramente ricorderai, è stato presentato fuori concorso all'ultimo Festival di Cannes. E come sempre, credo, più di sempre, questo è insomma, Lars von Trier è un autore che divide, cioè è difficile che ci sia una omogeneità di pensiero e di consensi, lui divide inevitabilmente, che è poi credo il suo obiettivo, cioè la provocazione. Il film è oggettivamente un film molto forte, insomma molto anche violento, c'è una visione artistica della violenza, un racconto artistico della violenza, e a Cannes ha diviso il pubblico, è ormai letteratura che molti spettatori durante la proiezione poi se ne siano andati prima della fine del film, ha diviso la critica, dividerà la critica e dividerà l'opinione pubblica, quindi credo che accadrà anche questa cosa da noi, insomma, dopo l'uscita del film. E al botteghino invece all'estero che risultati ha ottenuto? Ma è comunque percepito ed è un film d'autore, quindi insomma non ha avuto un consenso di box office, cioè non è un blockbuster, insomma come nessuno dei suoi film, è un film medio, un incasso medio, insomma da un film d'autore. Ne pensi tu della visione del film rispetto a questa scelta distributiva? E cosa avete apprezzato di questo film? Guarda, il film è stato acquistato 2 anni e mezzo fa sulla sceneggiatura. Ed era una sceneggiatura, diciamo, sicuramente violenta, ma molto ironica. C'è proprio il senso, se vuoi, quasi del paradosso e dell'assurdo in questo racconto. Ed è stata la cosa che forse ci ha convinto a prendere il film, oltre al fatto che, insomma, era importante per Videa poter avere al suo interno un autore come Lars von Trier, perché è uno dei pochi registi che ha una cifra molto riconoscibile, cioè lo capisci immediatamente che è un film di Lars von Trier, e questo a noi faceva, insomma, ci interessava. E invece la visione del film, che reazioni ti ha suscitato personalmente? Quando ho visto il film, intendi, Sì. io l'ho visto in una proiezione appunto di mercato a Cannes di quest'anno e beh, insomma devo dire che mi ha colpito abbastanza, nel senso che c'è una prima parte in cui c'è veramente questo ritmo molto se vuoi, divertito e divertente, per cui ridi, sorridi con una certa frequenza. Dopodiché, in alcune parti, devo dire, insomma, mi ha colpito particolarmente, nel senso che cioè, l'ho trovato molto forte, molto intenso. Complessivamente, la mia sensazione è stata quella di un film, cioè ho cercato di oggettivizzare, no? Cioè, non da spettatore, ma da distributore, cioè, l'ho trovato un film che inevitabilmente avrebbe suscitato interesse. Comunque, fossero andate le cose, ecco, più quello. E che distribuzione sarà? Ma sarà una distribuzione, diciamo, di film di qualità, quindi un centinaio di copie circa. Naturalmente è un film soprattutto cittadino, insomma, da cinema di qualità, da pubblico che cerca quello. Speriamo anche che prenda un pubblico anche un po' più giovane, un po' più vicino al genere, se vogliamo, no? Che è un genere di horror d'autore, ma comunque insomma horror, però la distribuzione sarà più o meno quella. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film La casa di Jack di Lars von Trier al cinema da giovedì 28 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Antonio Adinolfi di Videa che lo distribuisce. Antonio, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, un abbraccio a voi tutti, a presto, arrivederci.